Zenni, nel coso, lui cosa prende? La pensione prende? Cosa? Giovanni? Ehi! È chiamato Giovanni? No, andare a andare. Vabbè. Giovanni, ha trovato la pensione anche lui. È un pensionato come tutti gli altri. Non sta valuta. Andare a andare. Aspetta, ci andiamo bene. Uiuiuia. Ci stavo dicendo un'altra cosa, ma non me ne ammetto cosa di dove ha detto. Ti devi dare 100 euro. Chi? Chi te le deve dare? Tu, quello è il nato di cavallo, che mi devi dare 100 euro. Questa non è memoria. Io sto ricordando, ma senso, non è per altro, non ricordo cosa tu mi dai. Mi sono stato in debito di 100 euro. Ma cosa sono 100 euro? Mi sono preso i panni, che non può, il mio piacere è la radio. Andiamo, guarda che 100 euro è. Continuiamo così, andiamo bene. Andiamo troppo veloce. Aspetta, fatto vedere. Delle piantagioni, carciofi e quanto ce n'è, tutto andato male. No, sono andato male, non c'è nulla. Quest'anno neanche vino ce lo fanno, perché stiamo facendo tutto. Quest'anno l'agricoltura è a cura sempre. Proprio verso male. Troppa acqua questo mese, troppa acqua è scesa. Prego, non ne voglio fare. Prima non piove. Adesso è arrivata la fine, c'è tutta l'altra la vostra. Organo non ne va di lunga, state mesi e mesi senza vanni, organo non ne va di truppo. Benissimo, è un raggio. Ma poi alla fine va di truppo. Certo, siamo stati mesi e mesi a Sittenireva e a voi pure un mese da otto ti capite già che ti fa le bombe d'eva di vana. Hai visto i bacini? Sono stracolmi, non ne vuoi più. Prima brigano i bavi in leva, adesso preghi di disarare i rubinetti. No, allora, apri in seracina che ti vado in fiammare, e poi questi non l'avevo. Giulia, che te, che andiamo via, andiamo. Beh, signor Bacchi, io ti devo salutare. Io vengo con le patatine, arriverò da farmi pure, non so per te. Alle 8 arriverò da per tutti. Va bene, adesso c'è il microfono sotto prima io. Ciao autore, buona serata, grazie delle 4 chiacchiere che abbiamo fatto. Saluti in casa, a domani se concilio. Ciao. Ok, ciao Bacchi.